cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. È il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto, per carità. Il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto, per carità. E buongiorno da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Ma che cos'è questa estate. Scopriamo l'acqua calda dicendo che il nostro è uno dei paesi più longevi, e lo diciamo in maniera politicamente corretta per non dire più vecchi al mondo. Siamo secondi al Giappone a livello mondiale, i più vecchi d'Europa. L'età media continua ad alzarsi, come sa bene lo Stato chiamato a gestire questa imponente trasformazione demografica con difficoltà. Infatti mette le pezze come può ricorrentemente sul sistema pensionistico, ma fa enorme fatica ad organizzare con razionalità, consapevolezza e lungimiranza tutto ciò che attiene alla questione assistenziale degli anziani non autosufficienti. Quasi un italiano su quattro ha più di 65 anni e questo rapporto salirà ad uno su tre nel 2050, praticamente domani. Ieri il quotidiano La Stampa ha messo in grande risalto l'ennesima fotografia su questo argomento scattata dall'IRCS IRCA, l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per Anziani di Ancona. In realtà per conto di questo istituto l'ho fatto il Network Scientifico Italia Longeva. Il focus del rapporto, al di là dei numeri che decretano in modo sempre più evidente la crescente quota dei non autosufficienti, è un focus su chi ricada il peso di questa evoluzione, rivoluzione demografica. L'impegno delle cure ricade in gran parte sulle famiglie e lo sappiamo bene. Almeno 1 milione le persone che si devono dedicare completamente all'assistenza dei propri congiunti, non più in grado di gestirsi autonomamente. E come lo fa? Come si prendono cura di queste persone? Con enormi sacrifici economici, si indebitano queste persone, si lascia spesso il lavoro per farsi carico del congiunto non più autosufficiente, si vendono case e insomma la difficoltà c'è, è evidente e la raccontiamo molto spesso. Noi stamattina parliamo di tutto ciò, di questa Italia che invecchia, di anziani sempre più numerosi in queste condizioni. Parleremo però anche di quelli che non sono completamente non autosufficienti, perché abbiamo anche uno spaccato positivo di questo fenomeno, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, ma prima vorremmo fare luce sulla questione, diciamo, più problematica. Peraltro c'è anche una legge in discussione in Parlamento, ma non ci risulta che sia proprio nell'ordine delle priorità del governo portare avanti questo tema per costruire una rete di tutele a favore dei cosiddetti caregiver, i figli badanti li chiamano. No? E ne parleremo anche appunto con la relatrice di questo provvedimento che ascolteremo tra poco, la senatrice Laura Bignami del gruppo misto Movimento 5 Stelle. 800 24 00 24, io stamattina avrei proprio il piacere di sentire le vostre testimonianze su questo tema. Avete una condizione di questo tipo nella vostra famiglia? Avete un anziano non più autosufficiente di cui prendervi cura? Come avete gestito? Vi siete rivolti al pubblico, al privato? Fate a casa vostra? Che tipo di sacrificio anche avete dovuto sopportare dal punto di vista economico? Naturalmente, perché poi è chiaro che dal punto di vista affettivo ed emotivo chi non vorrebbe continuare a tenersi il proprio caro in casa? Questi genitori che ci hanno dato tutto, noi abbiamo adesso questo momento ovviamente della restituzione, ma non è facile, perché poi c'è anche tutto l'altro fenomeno da considerare. C'è la fascia anagrafica dei quarantenni, cinquantenni, che sono considerati coloro che appartengono alla ribattezzata generazione sandwich, devono prendersi cura degli anziani e prendersi cura anche dei figli e dei nipoti. E come si fa? Insomma, è un tema che conosciamo e che in qualche maniera va sicuramente gestito. Grazie per essere con noi questa mattina, professor Roberto Bernabei, che è presidente di Italia Longeva, lo ricordo ancora, è questo network scientifico composto da Ministero della Salute, IRCA e Regione Marche, dedicato alla ricerca sull'invecchiamento e la longevità attiva, perché anche questo è un tema importante. Professor Bernabei, buongiorno. Buongiorno a voi. L'Italia, lei ha detto nei giorni scorsi, divulgando i dati a cui facevamo riferimento riportati ieri appunto sulla stampa, non ha dato una risposta univoca, non ha individuato un modello condiviso per la gestione di quella che lei ha definito la più grande emergenza demografica ed epidemiologica del presente e del futuro. Ci dà qualche dato in più rispetto a questa fotografia che avete scattato su questa Italia longeva e quali problemi affronta? Ma pochi numeri. Siamo il paese più vecchio del mondo, insieme al Giappone, siamo ormai prossimi al 25% di ultra 65 anni, vuol dire che un italiano su 4 è ultra 65 anni, che è l'età convenzionalmente ritenuta il passaggio dall'età adulta all'età anziana, i 65, e abbiamo una consistenza, come dire, antropologica nel paese di alcuni esempi. La famiglia italiana fa da Grosseto in su, il nord Italia è fatto da un figlio, un babbo e una mamma, quattro nonni e due bisnonne. Tra le 10 città con maggior numero di ultra 75 anni in Europa, 7 sono italiane. Questo è un quadro che dal punto di vista sociale è un quadro per certi versi inquietante, ma lo è ben di più dal punto di vista assistenziale, perché solo una serie di soluzioni fai da te sono state messe in piedi. Cito le badanti, nessun paese al mondo ha le badanti. Noi abbiamo 1 milione di badanti, che sono quelle che vicariano il Servizio Sanitario Nazionale, che non si occupa di anziani, perché l'assistenza domiciliare o le case di riposo, oggi si chiamano RSA, abbiamo i numeri più bassi di tutta Europa, ma di gran lunga. Poi, se vuole, glieli dettaglio. No, volentieri, se ci vuole raccontare, così almeno abbiamo proprio consapevolezza piena, diciamo, di quello di cui stiamo parlando. Noi abbiamo un'assistenza che, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, che probabilmente è il cuore della soluzione, abbiamo un'assistenza domiciliare che è intorno al 2% degli ultra 65 anni, cioè 2 ultra 65 anni su 100 hanno un qualche servizio di assistenza domiciliare. Il problema è che andiamo dall'1% del Lazio, Molise, Lazio, Basilicata e Campania, al 4%, 5% di Emilia Romagna e Veneto, per esempio, o Abruzzo, per dire che c'è una macchia geografica che non è legittima. Perché? Perché l'1% o il 5%, cioè 5 volte tanto? Poi comunque, in ogni caso, anche chi ha, come dire, la condizione più virtuosa, è in ogni caso insoddisfacente per rispondere alla domanda che c'è di servizi di questo tipo. Sì, lei parlava, perché nessun paese europeo va sotto il 7-8%, ovviamente in Nord Europa siamo intorno al 20%, perché è evidente che l'esplosione demografica ha cambiato la radice delle malattie. Ci sono malattie e situazioni completamente diverse che non sono gestite dall'ospedale, tantomeno dal medico di medicina generale, sono gestite da servizi nel territorio. Su questo siamo comici. Ah, beh, insomma, il giudizio mi pare abbastanza chiaro, professor Bernabei. Allora, il tema dell'assistenza domiciliare è quello su cui il vostro studio appunto fa un ulteriore approfondimento, perché voi quello che dite è che il nostro paese dedica all'assistenza domiciliare sicuramente sforzi e risorse, ma li definite risibili. Basti pensare che dedichiamo in media a ciascun paziente 20 ore di assistenza domiciliare ogni anno e non mancano nazioni europee che garantiscono le stesse ore di assistenza in poco più di un mese. Allora, qual è la strada per andare verso un modello, non dico virtuoso all'europea, ma per migliorare quel poco che abbiamo, professor Bernabei? In un tema esclusivamente di denaro, è un tema di cultura, di impreparazione, che questo paese stesse invecchiando, non è che lo scopriamo appunto da un giorno ad un altro. Ci sono assolutamente fior di studiosi che da anni analizzano questa condizione demografica italiana, che è evidente e anche bella per certi versi, sicuramente, perché se poi si vive più a lungo sicuramente è frutto anche di tutta la ricerca che la medicina ha fatto. Noi abbiamo fatto per 4 anni Cuore e Denari con la collega Nicoletta Carbone, e non è che dobbiamo per forza di cose demonizzare ovviamente questa situazione, però la dobbiamo gestire in maniera responsabile. Lo Stato ha anche questa responsabilità, per l'appunto. Qual è il problema dell'assistenza domiciliare? Ma vede, se lei oggi in questo paese, che sia a Catanzaro o a Bolzano, ha bisogno di mettersi, lei parlava di cuore, di mettersi 2 o 3 stent, cioè quei tubicini che stappano le coronarie intasate, che se no provocherebbero un infarto, lei questi stent se li mette con relativa sicurezza a costo zero, perché questo è il bello di un servizio sanitario nazionale gratuito e universalistico come il nostro, e quindi non c'è problema. Cioè, noi ormai abbiamo assorbito con il Servizio Sanitario Nazionale delle capacità tecnologiche e manuali, se vuole, su tutto il territorio nazionale per assistere l'acuto. Siccome quando abbiamo creato il Servizio Sanitario Nazionale l'abbiamo copiato da quello inglese, ma abbiamo tolto le tre pagine in cui nel Servizio Sanitario Nazionale inglese si diceva che bisogna fare anche l'assistenza specifica ai vecchi, perché i vecchi hanno bisogno di un'assistenza diversa. Come le dicevo prima, non è l'ospedale il posto dove assistere i vecchi, tranne alcuni casi ovviamente. Non è il medico di medicina generale, cioè non è che vai all'ambulatorio del medico e curi la non autosufficienza. Non è che vai all'ospedale e curi la disabilità, cioè il mancato funzionamento di qualche pezzo di te, fisico o cognitivo, perché c'hai 3, 4, 5 patologie, che è la novità. Oggi si campa a lungo, ma si campa con 3, 4, 5, 6 patologie, sì. Le donne più degli uomini. E queste patologie, fin quando le riesci a gestire, perché ti curi la pressione alta, ti curi quel cancro della prostata con la terapia ormonale, eccetera, più o meno fai una vita normale. Quando precipiti nella non autosufficienza, cioè nel non essere capace di affrontare la quotidianità per conto tuo, è evidente che non è il medico, non è l'ospedale, è una serie di organizzazioni, e lì casca l'asino, perché quando c'è da organizzarci, quando c'è da utilizzare una metodologia congrua e diffusa e standardizzata, è lì facciamo fatica. Poi ci aggiunga il titolo quinto, per cui ogni regione legifera, dice la sua, certo. Da questo punto di vista non c'entra nulla, ogni regione legifera, abbiamo una macchia di leopardo infinita regione per regione senza nessuna congruenza. Non c'è congruenza tra posti letto in residenze sanitarie rispetto a quelli in assistenza domiciliare o in cure palliative, certo. O in riabilitazione. Senta, perché ognuno si è inventato la sua ruota. Senta Bernabé, allora, visto che voi naturalmente conducete anche a livello istituzionale questi studi e rilasciate questi rapporti, non tanto per far vedere quanto siete bravi a fare questi studi su quello che c'è, ma anche magari per fornire delle soluzioni e delle proposte per poter andare in una condizione di miglioramento di questa situazione, che sicuramente dall'oggi al domani non si ribalta diventando un paese virtuoso al 100%, però probabilmente qualche cosa si può fare. Che tipo di suggerimenti fornisce il vostro studio anche in questo senso? Semplice, ci sediamo tutti intorno a un tavolo, facciamo gli stati generali della disabilità, della non autosufficienza, e si scrive un modello unico di assistenza in cui ogni regione deve avere quel tot di assistiti in assistenza domiciliare, quel tot di posti letto in RSA, a seconda, se vuole, anche delle consistenze familiari, ma con uno straccio di logica e con un punto all'interno del territorio, della comunità, che funga da pronto soccorso della non autosufficienza. Si chiama punto unico d'accesso, non è una roba che mi invento io, È già previsto dalle legislazioni regionali, ma appunto non è soluzionato. Solo con una clamorosa settimana di riflessione generale paese, a questo serve la politica, perché poi io faccio il tecnico, posso dare la soluzione tecnica, ma serve la politica per farci sedere tutti intorno a un tavolo e fare gli stati generali della non autosufficienza. Allora, Lorenzo Gasparrini, segretario generale di Domina, l'Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico. Parlavamo prima di collaboratori familiari e badanti che si prendono cura molto spesso delle persone non autosufficienti, danno una gran mano in famiglia, anche a costo di obbligare le famiglie naturalmente a sostenere sforzi economici non indifferenti, sicuramente un po' più sostenibili rispetto al collocare un anziano non autosufficiente in una struttura che, se non è quella pubblica, se è quella privata, ti devasta economicamente parlando. E voi invece, Gasparrini, avete proprio messo sotto i riflettori in questo studio che avete elaborato con la Fondazione Moressa e che è stato riportato anche dalle Sole 24 Ore di lunedì scorso nel pezzo della collega Francesca Barbieri, appunto avete proprio fatto il focus invece sulla problematica di carattere economica, come rendere dignitosa la vita degli anziani quando con la pensione, magari con un piccolo contributo della rete familiare, non arrivi neanche lontanamente a soddisfare il pagamento della retta appunto nelle residenze sanitarie, come ce le ha correttamente definite Bernabei prima. Allora, cosa dice invece il vostro studio, Gasparrini? Qual è la fotografia che avete scattato voi? Allora, la fotografia dice che in Italia attualmente ci sono 2 milioni di famiglie che hanno alle proprie dipendenze un lavoratore domestico. Di queste solo 1 milione è in regola, cioè in Italia va ancora molto il nero. Le persone pensano che col nero si possa ancora risparmiare, sia una cosa positiva, ed è il primo errore che purtroppo viene fatto dalle famiglie, perché poi successivamente si va incontro alle famose vertenze che oltre ad avvenire in un periodo particolare per la famiglia, magari con la perdita del caro, sono anche un impatto economico spesso devastante per la famiglia. Il costo della badante attualmente è di circa mediamente di 16.000 euro ed è un costo sicuramente non basso, perché se calcoliamo che gran parte dei pensionati italiani ha un reddito inferiore ai 30.000 euro e 25.000 euro, c'è un problema fondamentale. La badante, chi la paga? Spesso sono i vari familiari che si mettono insieme, i vari figli, i nipoti, e integrano la pensione, integrano esattamente la pensione dell'assistito, per permettere all'assistito appunto di avere una vita dignitosa. Che cosa bisognerebbe fare? Questo è fondamentale. Attualmente in Italia, mentre il welfare è un welfare diciamo di tipo mediterraneo, per cui molti servizi sociali sono affidati alle famiglie, le famiglie sono lasciate spesso sole, specialmente nei momenti particolari. Che è quello che ci stanno segnalando già molti ascoltatori, ci siamo sentiti soli quando abbiamo dovuto affrontare questo momento che dovrebbe essere naturale nella vita di ogni famiglia, e invece ti senti perso, completamente spaesato, come se non ti aspettassi mai che l'invecchiamento improvviso del congiunto poi ti possa portare appunto ad una rivoluzione familiare di questo tipo. Un po' come quando nasce il figlio, no? In casa, qualche volta qualche genitore totalmente a questa avventura molto bella e naturale della propria vita in maniera del tutto inaspettata, anche la gestione dell'anziano che diventa improvvisamente non più autosufficiente, non ce la fai. Quindi Gasparrini esatto, il discorso è quello: bisognerebbe fare una politica fiscale seria di medio lungo periodo. Cioè, noi come associazione firmataria del contratto collettivo nazionale, insieme ai sindacati, insieme alle varie associazioni, anche con le associazioni dei disabili, le associazioni dei pensionati, bisogna cercare di spingere lo Stato a fare una politica che possa aiutare le famiglie economicamente. Se la famiglia si deve gestire da solo l'anziano ammalato, non autosufficiente in casa, almeno diamogli la possibilità economica di detrarre le spese o di portarle in deduzione. Non solo i contributi, ma tutta la retribuzione. In Parlamento in realtà sta camminando, Gasparrini, una legge che hanno chiamato la legge sui figli badanti, che vorrebbe proprio garantire a familiari aiuti economici ma anche psicologici. Noi abbiamo la prima firmataria di questa proposta di legge. In realtà c'è stato poi anche una razionalizzazione di varie proposte di legge che sono state presentate in questi anni da parte anche di altri parlamentari, quindi in realtà la volontà politica c'è, il tema è di un percorso che comincia a portarlo anche a compimento. Adesso le faccio sentire qual è l'idea di Laura Bignami, però prima abbiamo la pubblicità. Tra poco. Ma cos'è quest'estate? E allora, prima parlavamo della necessità di avere un quadro legislativo di sostegno alle famiglie che si prendono cura di anziani non autosufficienti. C'è in Parlamento in realtà una legge che sta camminando da qualche mese, ce ne sono diverse per la verità, però quella sulla quale si fa un po' più di attenzione da qualche tempo a questa parte è quella che ha elaborato la senatrice Laura Bignami, che abbiamo al telefono con noi. Buongiorno intanto e grazie. Sì, buongiorno a tutti quanti. Però credo che l'abbiano sostenuta. Sono tre. Sì, esatto. Allora, ci racconta 90, un po'. Sì, sono tre. Uno è presentato, i numeri dei disegni di legge sono relativi. C'è la senatrice De Pietro che ha presentato un disegno di legge proprio sugli anziani. Invece sul caregiver io e il senatore Angioni. Angioni, infatti. Adesso, sì, il testo è presentato alla commissione... undicesima Senato. Ma l'idea è di farne un provvedimento unico, senatrice Bignami? Sì. Di reazione a un testo unico. Un testo unico, sì. Mi fa sorridere l'idea dei figli badanti, perché l'idea originale nasce proprio da sostegno non per chi accudisce gli anziani propriamente, ma per chi accudisce proprio un disabile. Una persona non autosufficiente in casa, con una disabilità di qualche tipo. Gravissima, tenete presente però che oltre a queste realtà che narrate, esistono genitori che accudiscono i propri figli disabili, sì, carrozzina, da muovere, spostare da più di 30 anni e ai quali non viene concesso neanche un prepensionamento, nonostante ad esempio ci siano degli studi di una un premio Nobel, Elizabeth Blackburn, che dimostra che queste persone vivono in media 17 anni in meglio, quindi dal punto di vista matematico non ci vorrebbero neanche le coperture, però purtroppo... Certo. No, questo tema peraltro della, del badante al contrario, come dire, dell'anziano che si prende cura magari di un figlio disabile per tanti anni. Si fa tanta confusione, io vorrei proprio mettere puntini sul fatto che in Italia con la 104 si accudiscono i disabili, hanno tantissimi disabili, poi tutte le persone autosufficienti hanno le loro leggi, ma non esiste nulla che riguarda... che hanno per argomento coloro che accudiscono e quindi fanno la loro vita, la maggior parte sono donne, si sacrificano completamente per i figli, anche i genitori, e quindi anche in questo caso vi rimando sul vostro tema, sugli anziani, e loro viene negato anche il diritto alla salute, perché non esistono dei protocolli che prevedono, ad esempio nel caso in cui queste persone si ammalano, cosa fare tra virgolette del disabile a casa, e quindi a loro viene proprio negato l'accesso alla salute. Senatrice Bignami, cosa prevede questo testo che voi volete far diventare testo unico? Perché ci dia i tre capisaldi, i tre punti fermi della norma, concreti. Che riguarda il mio è la salute, il riposo e il lavoro, cioè il prepensionamento. E il problema è il riconoscimento dal punto di vista contributivo di questi anni lavorati in accudimento. Faccio sempre il solito esempio per chi mi ha già sentito, magari si annoia, però in realtà se una donna ha un figlio cerebroleso per 20 anni e lo accudisce con amore infinito e poi viene meno, noi abbiamo questa risorsa dal punto di vista dello Stato che si trova a 45 anni o non lavora e aspetta la sociale oppure va a lavorare in nero. Perché non tagliata fuori completamente da ogni tipo di relazione sociale. Abbiamo oltre che professionale. Cioè... per un evento drammatico della sua vita, cioè abbiamo veramente perso una risorsa, lo Stato perde una risorsa. E in più questa donna vive un'esistenza che lascio tutto immaginare, nel senso che comunque non gli diamo neanche la possibilità di realizzare il sé e di avere i suoi diritti. Durante l'accudimento non hanno il diritto al riposo, hanno difficoltà all'accesso alla salute, tutte queste cose vengono poi toccate dal mio disegno di legge. La cosa importante è anche dare la possibilità per chi vuole e chi può il telelavoro, l'utilizzo, quindi il potenziamento del telelavoro, è un modo come un altro per poi realizzarsi dal punto di vista professionale, magari per chi poi si trova ad accudire anche un genitore. Senta, senatrice Bignami, noi tra l'altro... Se potesse lavorare in telelavoro sarebbe comunque una risorsa per lo Stato. Assolutamente. Senta, no, è che ho altri ospiti, tra un po' dobbiamo chiudere, poi devo parlare dell'anniversario del terremoto, però l'importante è che abbiamo capito che la volontà politica di portare avanti questo discorso c'è assolutamente, ma abbiamo anche una legislatura che sta terminando con tutta un'altra serie di priorità che questo governo si è dato, poi tra un po' comincerà persino a discussione sulla legge di bilancio. Lei è fiduciosa nel poter portare a casa questo compito? Ce la sì, fa? Il presidente Sacconi è ottimista. A settembre ci vediamo tutti e cercheremo di portare avanti, condividendo con anche la Camera il testo, in modo da poter poi evitare eventuali correzioni. E chiedo agli illustri ospiti se hanno dei suggerimenti e vogliono scrivermi delle modifiche al testo, perché io sono una senatrice un po' per caso, quindi non ho questa grande esperienza legislativa alle spalle, quindi mi sento la responsabilità, ma condivido poi un po' con tutti. Sfido senatrice Bignami, voglio dire, a mettersi anche la persona che ha la più grande esperienza, ci sono dei funzionari che lo fanno per lavoro, quello di poi tradurre, no, in testo legislativo da portare all'esame delle autorità competenti, per cui l'importante è che ci sia la volontà politica. Però raccogliamo l'invito, magari adesso sento al volo Gasparrini e Bernabei, se hanno voglia di dire in 30 secondi la loro su quello che potrebbero aggiungere o suggerire alla senatrice Bignami. Gasparrini ha sentito questa sì, disponibilità? No, è sentito, è sicuramente interessante. Bisognerebbe appunto prevedere la possibilità di aiutare le famiglie, e la famiglia poi al proprio interno può vedere, perché spesso all'interno della famiglia non è che c'è passa solo una badante, ma ci sono le badanti e i figli dell'assistito che aiutano, per cui un provvedimento che possa andare incontro alla famiglia, non solo ai caregiver, diciamo, ma anche alla badante, quindi è la famiglia il nucleo centrale che deve essere aiutato. È importante pensare a questo, che le famiglie sono la pietra angolare della nostra società, bisogna aiutarle. No, tra l'altro ci sono molti ascoltatori che continuano, questo mi sta colpendo molto, fra tutti quelli che scrivono e vorrebbero anche intervenire in diretta, continuano tutti a sollevare le mille problematiche burocratiche da aggiungere a tutte le altre, come fa Yolanda da Milano, che vorrei sentire al volo. Yolanda, benvenuta. Sì, buongiorno. Allora, il mio caso è questo: mia mamma è malata di Alzheimer, quindi è stata dichiarata invalida totale e ha avuto un problema di denti. E se tu hai un problema di denti, non puoi, essendo malata di Alzheimer, non poteva essere trattata da un dentista normale. Mi hanno detto che bisognava fare un'anestesia totale, ma l'anestesia totale richiede la firma del paziente, che non può farla perché è incapace. E io mi hanno detto che dovevo diventare amministratore di sostegno o tutore per poterla trattare. Questo è assurdo, non è possibile che io per curare mia mamma debba diventare amministratore di sostegno, che normalmente ha a che fare con la finanza, con questi problemi di soldi. Come insomma, l'ha risolto economici. Quindi questo problema, Yolanda? Cioè, privatamente. Certo, però, che nessuno le chiede nessuna firma, ovvio. Perché è chiaro, dal punto di vista dell'urgenza l'abbiamo risolto così, adesso saremo per tutta la pratica burocratica dell'amministratore di sostegno, ma questo non è giusto. No. Semplificazione, la parola d'ordine in questo caso per queste persone che hanno un'evidente condizione di non autosufficienza, perché non è che Yolanda si è presentata con un genitore che faceva finta di avere l'Alzheimer, è evidente quando questa patologia c'è, per cui va in qualche maniera sostenuta a Yolanda, non con questi impedimenti veramente che hanno dell'assurdo, per cui un altro suggerimento a Laura Bignami l'abbiamo dato. Bernabei, lei ha la sua in un minutino? Vabbè, la defiscalizzazione è un'ottima cosa, certamente. Però attenzione, o qui ci sediamo intorno al tavolo oppure si va poco lontano, perché dopodomani non ci saranno più le Yolande che si occupano della mamma con Alzheimer, ci sarà solo la mamma con l'Alzheimer, e se non c'è un'organizzazione complessa la famiglia in questo paese sta scomparendo, quindi bisogna invece riorganizzarci con i servizi nel territorio. Allora facciamoci promotori di questi stati generali della non autosufficienza. Sono certa che Laura Bignami è molto interessata anche a questo discorso, per cui mettetevi in contatto, magari lo faremo noi per voi, creeremo un link unico per vedere se riusciamo a portare a casa questo tavolo. Allora adesso ci fermiamo perché c'è la pausa adesso, Peter. No, non c'è, vedi che non c'è niente da fare, sono incollata al vecchio orario, quello di Cuore e Denari, poi tra mi devo anche abituare ad un altro programma dal 4 settembre, figurati. Vado avanti con il nostro argomento, però dando ancora tagli diversi, salutando Laura Bignami, Roberto Bernabei e Lorenzo Gasparrini, e saluto invece un grande amico del nostro vecchio programma di Cuore e Denari, il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professor Barbanti. Buongiorno a tutti. In questi giorni scherzo molto con tutte le persone che disturbo nel bel mezzo delle ferie, l'ho fatto anche con lei questa mattina, ma lei molto cortesemente come sempre ha voluto darci il suo contributo, perché è un tema che le sta molto caro. Quando per ragioni di cronaca dobbiamo commentare questi studi, sembra che abbiamo sempre a che fare con una popolazione di anziani tutti nella stessa condizione, non più in grado da un certo punto della propria vita di svolgere le loro funzioni. Siamo molto meno capaci di enfatizzare l'altra faccia della medaglia, che è quella di una popolazione invece particolarmente attiva, molto attiva e vivace, molto lontana da questa condizione di non autosufficienza. E il mantenimento del benessere fisico e mentale in età avanzata è certo spesso merito da una parte di un buon codice genetico fortunato, ma anche di volontà personale, no, professor Barbanti? La voglia di mantenersi attivi aiuta. Sì, aiuta moltissimo la voglia di mantenersi attivi, la presenza intorno alla persona anziana di situazioni di stimolo, anche di stimolo giocoso. È dimostrato, lo dico sempre scientificamente, che andare a giocare a bocce o essere al circolo anziani, fraternizzare con persone della propria età, cognitivamente ha lo stesso effetto del fare le parole crociate o leggere libri. Quindi il socializzare, l'essere insieme, il divertirsi, che è un aspetto che negli anziani noi tendiamo un pochino a dimenticare, ha un profondo effetto di miglioramento delle condizioni generali, anche propriamente neurologiche. Mm-hmm. Sentivo dire prima un po' di numeri, no? Sì. Nel breve periodo in cui sono stato in attesa. Certamente c'è il dramma invecchiamento, il dramma Alzheimer, che se vogliamo è il prezzo che paghiamo in una popolazione ovviamente che riesce a vivere più a lungo e meglio, ma ci sono dei numeri un po' diversi all'interno del mondo in questo fenomeno crescente della demenza, che magari se vuole possiamo un po' snocciolare per non farvi tutta l'erba un fascio. Proviamo a raccontare qualche realtà interessante. No, facciamo un po' il controcanto del dramma, che pure per certi versi. Innanzitutto, i casi di invecchiamento cerebrale che noi chiamiamo Alzheimer sono previsti passare da circa 47 milioni adesso a 131 milioni nel 2050, ma l'Europa cresce molto poco. Quindi occorre dire che, per esempio, questo non è un discorso banale di volere dire beh, tanto stiamo bene noi, stanno bene tutti, però il netto incremento dei casi di Alzheimer riguarderà prevalentemente le popolazioni in via di sviluppo. La crescita in Europa è flat. È piatta, relativamente piatta. Per esempio, dal 2015 al 2030, da 11 milioni passeranno a 13 milioni, quindi un incremento che tende un pochino a appiattirsi. E questo riflette tanti motivi, tanti miglioramenti dello stile di vita che noi facciamo prima di ammalarci. Ecco, si registrano poi sempre di più, professor Barbanti, casi di invecchiamento di successo, lo possiamo definire così, questo fenomeno, questa tendenza, questo trend? Sì, ormai è un'entità fisiologica. Chi è il vecchio di successo? È la persona che invecchiando, bada bene, già si contano gli invecchiamenti di successo sopra i 65 anni, qua viene a tremare, tanto da far tremare i polsi perché molti di noi ci sono dentro. Ebbene, l'invecchiamento di successo è quella condizione per la quale il soggetto invecchia ma non perde ruolo, non perde ruolo sociale, non perde ruolo culturale, non perde ruolo lavorativo dove possa esistere. Noi abbiamo tanti esempi, Giorgio Napolitano, Eugenio Scalfari, Indro Montanelli finché è stato in vita, e tantissime persone per nulla note all'interno delle nostre città, dei nostri paesi, che mantengono una particolare lucidità e una particolare volitività, voglia di fare e capacità di essere propositivi. Non sono pochi, si calcola che il 75% degli ultra 65 anni sia destinato all'invecchiamento del successo e che l'11% di quelli che hanno oltre gli 80 anni abbia un invecchiamento di successo. Sono numeri che noi speriamo di ingrandire, ma non dimentichiamo questo fenomeno così importante. Certo. Lei fa una riflessione, professor Barbanti, sulla situazione cognitiva delle persone anziane. Sugli aspetti invece, per così dire, motori, che cosa possiamo dire rispetto all'evoluzione a cui stiamo assistendo? Ma che si invecchia nettamente meglio. Chi possa avere 50, 60 anni e ricorda quando aveva 15, 20 anni, una persona di 70 anni ricordava il settantenne un pochino suonato già che trascinava i piedi. Cioè, noi dobbiamo ringraziare moltissimo gli internisti perché la cura delle malattie metaboliche, pressione, diabete, colesterolo, ha fatto sì che il cervello arrivi a una certa età ben nutrito, e questo non solo migliora le capacità cognitive, ma rende il soggetto anziano un soggetto che ha migliore equilibrio motorio, alludo a quello mentale, migliore capacità di essere autonomo, di compiere gesti complessi con le mani, di mantenere i propri hobby, di andare a pesca, di andare a caccia. Adesso sono temi un po' difficili da parlare in questi tempi, però sicuramente c'è un miglioramento nettissimo sono delle capacità motorie e generalmente neurologiche del soggetto anziano. Certo, a meno che naturalmente poi non esistano delle condizioni ovviamente di straordinarietà, professor Barbanti, si possono allontanare sempre di più le condizioni di non autosufficienza, possibilmente procrastinarle nel tempo, annullarle del tutto, non lo so. Detto questo, qualche cosa si può fare per evitare che poi viviamo una situazione in età anziana pesante, tale che ricada sulle spalle dei nostri congiunti che qualche volta non ce la fanno a sostenerla, anzi molto spesso purtroppo, e non solo emotivamente parlando ma anche economicamente parlando, per tutto quello che abbiamo raccontato nella prima parte del programma. Quindi anche in questo caso due suggerimenti dell'esperto da fornire ai nostri ascoltatori. Beh, intanto un suggerimento che troppo spesso viene dimenticato è controllare il tono dell'umore dei nostri anziani. La medicina ha fatto progressi enormi, ma le ha fatti enormi già da qualche decennio nel controllo dei disturbi dell'umore, della depressione. Un soggetto anziano non è un soggetto che manifesta i sintomi depressivi come un quarantenne, è un soggetto spesso che diventa chiuso o, tra virgolette, cattivello, irritabile, meno facilmente gestibile. Bene, curiamo l'umore, facciamo curare l'umore del nostro anziano, perché questo è un elemento fondamentale per il suo inserimento familiare, sociale, per la sua autonomia. Secondo aspetto, ricordiamoci che l'anziano non ha bisogno solo di aria condizionata d'estate e di una badante che lo tenga lindo e pulito, ha bisogno di intrattenersi. L'intrattenimento televisivo non è sufficiente. Lo stimolare incontro con altri anziani, la frequentazione di centri anziani è fondamentale per poter arricchire non solo il suo stato d'animo ma il suo assetto cognitivo. Le sinapsi, questi abbracci delle cellule nervose, si stimolano esattamente nel divertimento, nella gioia, così come certo, nell'attività culturale. Quindi teniamoli in mezzo agli altri. Grazie per questa ultima indicazione che mi dà modo anche di segnalare, perché ci tenevo, un pezzo che ha pubblicato qualche giorno fa sul Foglio una collega, Jessica Mariana Masucci, che si intitola proprio "La popolazione invecchia, i comuni moltiplicano le iniziative per mantenere attivi gli anziani", e vi posso assicurare che sul territorio c'è di tutto e di più. I comuni si spendono tantissimo per le attività ricreative, appunto proprio per il mantenimento di questa condizione positiva per la popolazione anziana. Professor Barbanti, grazie per essere stato con noi, a presto naturalmente. Grazie a voi. L'ultima chiacchierata la faccio, abbiamo pochi minuti ma avremo modo di dire tutto quello che è necessario dire anche in poco tempo, con Lidia Borzi, presidente delle ACLI di Roma e provincia. Buongiorno, perché nei giorni scorsi questa organizzazione ha rifatto di nuovo un vademecum sulla base di alcune esperienze negative che si stavano manifestando sul territorio per evitare che gli anziani incappino nelle classiche truffe estive, no? Borzi, buongiorno intanto. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, le ultime novità che avete riscontrato quali sono? Persino degli incendi che hanno devastato, guardi, quest'estate, si sono approfittati i malviventi. La fantasia purtroppo dei malintenzionati e di chi veramente dei truffatori è infinita ed è molto fervida purtroppo. E allora hanno approfittato e strumentalizzato anche questa estate calda, e veramente ha dato tanti problemi con gli incendi, creando nella capitale situazioni di disagio perché il fuoco ha lambito anche abitazioni, e quindi tanti truffatori si sono inventati agenti, come dire, tecnici del comune, dei municipi, e con questa scusa si introducevano nelle case degli anziani e li truffavano, li rapinavano e così via. A noi abbiamo, siccome seguiamo il problema degli anziani 365 giorni l'anno, e devo dire che ho trovato la chiacchierata col professore che mi ha preceduto molto interessante. E a Roma lo vado a trovare, guardi, perché potete fare tante belle cose insieme. Lo inviteremo, perché proprio il tema della solitudine è un altro tema che fa invecchiare precocemente gli anziani, e la solitudine è anche il terreno fertile dove nascono e dove crescono e si sviluppano le truffe, questa microcriminalità, perché gli anziani da soli sono più fragili, sono più attaccabili, e allora bisogna stare in rete, e la prima rete bisogna farlo alla comunità. Ecco perché noi questo tema dell'antitruffa, la Federazione degli Anziani e Pensionati delle ACLI, la FAP, lo seguiamo proprio con la Polizia di Stato, con i centri anziani, con i municipi, facciamo un vero e proprio tour durante tutto l'anno, 365 giorni l'anno, andiamo gratuitamente dove ci viene richiesto e facciamo questi corsi che appoggiamo anche con un vademecum, che è uno strumento proprio semplice e di facile consultazione da tenere anche in tasca. E diciamo che veramente a questo abbiniamo anche l'autoprotezione, alcune indicazioni fatte insieme all'Unione Sportiva delle Acli di Roma, come proteggersi, come cadere se si viene spinti, come dove tenere la borsa, ad esempio tenerla sempre dal lato del muro, piccole indicazioni, e soprattutto diplomiamo i nostri anziani dopo un percorso di 3 appuntamenti in passaparola, perché riteniamo che in questo ambito l'informazione sia la cosa più importante. Gli anziani si devono guardare, devono aprire gli occhi, come dire. E non aprire la porta, aprire gli occhi ma non aprire la porta quando arriva il 14 agosto il falso tecnico che dice c'è stato l'incendio, si è danneggiato a te un cavo fuori, vabbè. Sono dell'incredibile, però queste persone sono sole e molto spesso anche per fare 2 chiacchiere di 2 secondi aprono a questi improbabili personaggi. C'è stato anche un altro caso. Raccolto una serie di truffe veramente dalle più improbabili, quella della signora che gli rubano la borsa al cimitero, poi la chiamano. Nel chiamarla le dicono di recarsi subito al cimitero e nel frattempo le svaligiano la casa. A Milano è stato denunciato un quarantenne arrestato, anzi, perché con la sua convivente chiedeva la sottoscrizione a riviste specializzate, insieme storcevano denaro fingendosi funzionari del tribunale che andavano a riscuotere il denaro di un abbonamento di giornale. Sono riusciti a portarsi a casa 30-40 mila euro dagli anziani. Senta, presidente, io devo chiudere purtroppo. L'ho chiamata Borzi, ma è Borsì, giusto il suo cognome? Borzi. Esatto, sì, infatti. Borzi. Bocca al lupo per la vostra attività. Ci racconti altre cose, vi daremo altro spazio sicuramente prossimamente. Adesso devo dare spazio al giornale radio perché è tardissimo. Poi torneremo ad Amatrice, ad Accumoni, ad Arquata del Tronto un anno dopo. Il segnale orario vi è offerto da. Sei in ritardo! Ma ho comprato le pizze Roncadin. Non sei in ritardo. Roncadin, nel banco freezer. Ma cos'è quest'estate? Eccoci ritrovati a Ma che cos'è quest'estate, e anche per noi l'obbligo, l'impegno a ricordare quello che è successo un anno fa nel centro Italia, la nostra copertina. Buongiorno a tutti, sono le 6, vi parla Daniele Biacchisi e questa è la prima edizione straordinaria di una lunga giornata iniziata poche ore fa con la notizia della forte scossa di terremoto magnitudo 6.0. L'epicentro è ad Accumoli, provincia di Rieti nel Lazio, a pochi chilometri equidistante da Norcia e Amatrice. Ci stiamo attrezzando per fare in modo che, ma l'esigenza adesso è quella di cercare di tirare fuori la gente da sotto le macerie. Qui è un paese che non c'è più. C'è un... Posso immaginare, sindaco, la situazione? Lei ha visto diversi edifici collassati? No, ma proprio non ci stanno più. È un dramma. Scusate, io se vi posso utilizzare, scusate il termine, è quello di cercare di far venire qui nelle nostre zone, perché so che anche a Cumoli la situazione è simile, delle unità che riescono a tirare fuori la gente da sotto le macerie, perché la sentiamo i fritti e io non so che fare. Sono 3 le scosse più forti, una di magnitudo 6.0 è stata registrata alle 3.36, l'epicentro a 2 chilometri da Accumoli in provincia di Rieti. Seconda e terza scossa sono state registrate alle 4.32 e alle 4.33. Hanno avuto epicentro in prossimità di Norcia. Il bilancio purtroppo è tutto negativo ed è in evoluzione continua. Non abbiamo più lacrime per piangere. E allora noi abbiamo 2 possibilità, quella di farci sopraffare dallo sconforto e poi abbiamo la possibilità di reagire. Beh, io sarò disposto a chiedere dei sacrifici a questa mia comunità, questa grande nazione, perché nei momenti di emergenza l'Italia è una grandissima nazione, lo sappia diventare anche nella fase di ricostruzione, tenendo conto che questa gente è morta perché amava questa terra e vuole restare qui. È un anno che purtroppo ci porteremo dietro per tutta la vita, perché vabbè, l'anniversario sarà il riviversi tutto ciò che è stato dai primi secondi a... Purtroppo il terremoto non è solo quei secondi, il terremoto è tutto quello che si porta dietro, tutto quello che poi succede intorno a te, perdi il lavoro, perdi la casa, perdi la prospettiva futura. Che ti rimarrà di questo anno così particolare secondo te fra un po'? Vivere insieme agli altri, alla fine noi abbiamo una tavolata lunghissima, pranzo e cena, colazione, sempre insieme, questo sono dei bei ricordi. E anche i momenti brutti ci stanno ancora. La notte quando ti metti a pensare. E questa era la nostra copertina ad un anno dal terremoto che ha sconvolto dal centro Italia, realizzata da Chiara Compagnoni, che ringrazio. Una copertina con la quale abbiamo voluto appunto ricordare i momenti più concitati che stavamo anche noi vivendo un anno fa davanti a questi microfoni. Stavamo facendo la cronaca di quel poco che si sapeva a quest'ora di quello che stava succedendo nel cuore dell'Italia centrale. Un sisma devastante che ha portato con sé 299 vittime, 249 delle quali nei soli comuni di Amatrice ed Accumoli. Sono stati colpiti 140 comuni nelle quattro regioni del Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo. L'anniversario del sisma che il 24 agosto dello scorso anno ha sconvolto quelle zone è stato celebrato stanotte, anche questo lo abbiamo raccontato nel corso dei nostri giornali radio, appunto da queste veglie che si sono svolte nei principali centri colpiti appunto dal sisma del 2016, fiaccolate, i rintocchi delle campane, uno per ogni vittima fino alle 3:36, il momento del silenzio, del ricordo, la veglia di preghiera. Anche oggi sarà una giornata di lutto per Amatrice. E arriveranno il Premier Paolo Gentiloni, anche Laura Boldrini, Presidente della Camera, che come ricorderete appunto è anche peraltro originaria di quelle zone. Noi oggi dedichiamo questa seconda parte del nostro programma di Ma che cos'è quest'estate a questo anniversario, peraltro programma nel corso del quale in questi giorni ci è toccato anche raccontare di un altro terremoto meno devastante, ma pur anche questo ricco di tutte le polemiche che nel giro di pochissime ore si è trascinato dietro. E in genere sono ricorrenze che gli anniversari si festeggiano, questo naturalmente ha ben poco da festeggiare, ma sicuramente consente di tracciare i consueti bilanci che piacciono molto poco agli amministratori a cui tocca stilarli, però questo si fa oggi. Un anno fa facevamo la conta dei morti e delle vittime e dei danni, oggi facciamo la conta di altro, di quante macerie ancora rimangono in queste aree, di quante casette sono state assegnate alle persone, di quanti sfollati ancora ci sono, non sfollati, sono ancora nei container, quindi naturalmente in abitazioni provvisorie. Allora, i primi due ospiti che abbiamo il piacere di avere con noi questa mattina sono il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che salutiamo. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. E il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Presidente, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, Zingaretti, inizio subito con lei. Mi sono ripescata una... perché voi oltre a gestire tutto quello che dovete gestire come problemi, dovete gestire anche i problemi con i giornalisti che in questi giorni vi stanno rincorrendo a caccia naturalmente di bilanci, commenti e di parole su questo anniversario. Lei ha rilasciato una lunga intervista all'ANSA un paio di giorni fa e ha ripercorso in questa intervista le primissime ore del dopo scossa che aveva vissuto, perché lei aveva raggiunto Amatrice poco dopo, chiaramente chiamato da povero Pirozzi, che rimarrà con la sua voce, la sua voce appunto consumata dal dramma, un po' il simbolo di quelle prime ore devastanti del post sisma. E anche lei appunto raggiunse quelle zone abbastanza rapidamente, quanto più rapidamente poté. I primi mesi, lei ha raccontato all'ANSA, sono stati psicologicamente un dramma, scossa dopo scossa, a cominciare con le verifiche, i censimenti. Insomma, oggi ad un anno da quello che accade, ci faccia il suo personale bilancio e poi parleremo anche di quello che ancora è necessario fare, perché qua il tema grosso in questo momento è anche questo. Presidente Zingaretti. Beh, sono sì, io ho ricordato quella mattina e in questo momento sono quasi nello stesso punto di dove ero un anno fa, e la cosa più importante, almeno io così l'ho vissuta per un amministratore, di fronte a quel dramma e non deludere le persone, sentire sulle proprie spalle tutto il peso di un impegno etico prima dell'organizzativo e nel far seguire alle parole i fatti. Le parole erano saremo qui fino alla fine, non vi abbandoneremo, ricostruiremo qui e soprattutto, visto che si tratta di piccoli paesi, e migliaia di frazioni, poi, perché c'è tutta un'articolazione territoriale. Colpite almeno 40 tra Cumoli e Amatrice, 50 anzi, tra Cumoli e Amatrice. Oggi, dopo un anno, possiamo dire che questo obiettivo, giorno dopo giorno, sta facendo dei passi in avanti. Abbiamo già consegnato 511 casette, 33 villaggi urbanizzati consegnati entro fine mese, speriamo arriveremo a 615 case. È stato difficilissimo, no? Difficile, molto difficile, ma grazie al lavoro con il comune, con i sindaci, con tanta gente che ci ha messo l'anima, la strada è ancora lunga, ma anche i cammini che abbiamo fatto, i passi che abbiamo fatto, io penso siano stati importanti. Ora non bisogna minimamente distrarsi. La cosa più importante ancora dopo un anno è continuare a venire qua. Io vengo quasi tutte le settimane perché è importante questa percezione di fare, ripeto, ogni giorno un passo in avanti. È importante che le persone vi vedano, Presidente Zingaretti, perché in tutti i vari servizi straordinari che sto guardando in questi giorni sui telegiornali, network, eccetera, insomma, continuiamo ancora a sentire di persone che dicono di sentirsi lasciate sole dalle istituzioni e quindi, insomma, lei dice ho un impegno addirittura settimanale, provo ad andare là tutte le settimane. È importante che vi vedano le persone, questa vicinanza anche fisica, secondo lei? Guardi, la cosa più importante per me in questo anno è aver fatto tanti blitz nei cantieri senza dire niente a nessuno, perché mi permetto di dire scopri proprio due Italie. C'è un'Italia generosa, umana, di chi rinuncia alle ferie, di chi non stacca le due e continua fino alle sette, anche se il contratto prevederebbe le due e nessuno gli pagherà gli straordinari. E poi purtroppo lo sappiamo, c'è anche l'altra Italia che magari al telefono ride quando sente che c'è stata la scossa di terremoto, sì, o dei pazzi che vengono a farsi i selfie davanti alle macerie. E quindi noi non dobbiamo abbandonare il terreno, perché non dobbiamo prenderci in giro. Queste due Italie ci sono sempre state e ci saranno sempre, ma l'importante è far vincere la prima. Questo è il paese di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e di Totò Riina. E non bisogna far vincere ovviamente l'Italia cattiva rispetto all'Italia che lavora. Certo. E io credo che essere e continuare ad essere non significa dire abbiamo fatto tutto, ma ripeto, significa dire ogni giorno faremo insieme un passo in avanti. E la cosa che io ho trovato anche per un amministratore una totale differenza è il dovere etico e morale, magari in alcuni giorni, a prendere 10 decisioni diverse, al minuto, e ognuna che cambia la vita delle persone. E ovviamente bisogna avere anche l'umiltà di dire che alcune scelte sì, forse potevano essere fatte meglio, però guardate la complessità delle scelte, degli impegni è immensa. E mi sento di dire oggi è durissima. Giuro che non abbasseremo di un millimetro l'impegno etico e morale, ma mi sento anche di dire con più forza rispetto a un anno fa che ce la faremo, perché questi passi in avanti li abbiamo fatti insieme. Presidente Zingaretti, altro tema del momento, poi sulla questione delle macerie arriveremo, perché io le dico la verità, quando ieri sera parlavo con un'amica mi ha chiesto che cosa fai domattina nel programma, ma che cos'è quest'estate, dico faccio ad un anno dal terremoto, oltre al tema degli anziani che ho affrontato prima, e lei mi ha chiesto in 3 secondi qual è la situazione, le ho raccontato in brevissima sintesi nel corso di una cena quello di cui avrei parlato, tra cui la questione delle macerie che non vengono rimosse, qua si fa il conteggio delle tonnellate di tutti i detriti che ancora rimangono lì e quelli che andrebbero portati via, la distinzione fra le pubbliche e le private e quant'altro, e lei mi ha chiesto ma perché non vengono portate via, per una persona che non si occupa di questi argomenti, me lo sono chiesto allora, anch'io. Presidente Zingaretti, ci spiega lei dalla sua carica, poi andremo anche ai sindaci più tardi. Allora, la prima cosa è stata l'amianto, cioè le macerie pericolose, e quindi gare molto delicate perché l'amianto va tolto in sicurezza. Sono state tolte 5 tonnellate e comunque le imprese sono attive perché in qualsiasi momento si può trovare. Poi sono state tolte l'80-90% di tutte le macerie sulle strade, perché per arrivare alle case bisogna arrivarci, e queste sono state tolte. Poi ci sono tutte le macerie dei beni culturali, delle chiese. In questo caso le macerie vanno tolte mattone per mattone, vanno recuperate tutte al 100%, perché per fortuna in Italia le opere d'arte vanno ricostruite con gli stessi materiali. Poi oggi ci sono le gare, oltre 10 milioni, per togliere le macerie, che non sono, non sono pubbliche, sono macerie dei cittadini, sono le case con dentro i ricordi di una vita. E quindi da qualche settimana è attivo questo servizio, i sindaci fanno le ordinanze, ma non può passare una ruspa e portare via una casa abbattuta, perché quella casa appartiene alla famiglia. La famiglia va avvertita dopo, a 15 giorni di tempo, per decidere se vuole essere presente. Se vuole essere presente deve dire a chi le sta togliendo: aspetta, perché voglio recuperare un oggetto caro, e oppure vai avanti. E tutto questo, io ci tengo a dirlo anche qui, perché viviamo in Italia, non possiamo far finta che non sia così. Tutto fatto con gare pubbliche vigilate dall'anticorruzione, per circa, per quanto riguarda il Lazio, oltre 15 milioni di euro, 30 miliardi di vecchie lire, e a settembre ne faremo un'altra di 10 milioni per intensificare il lavoro nelle frazioni. Quindi è un lavoro delicato che già ha visto l'approvazione di tutti i piani macerie, per dare a tutti, a proposito del giusto coinvolgimento dei cittadini, il diritto di assistere e di decidere quando le ruspe arriveranno nella sua camera da letto, nel suo salotto e lì dove ha passato un'intera vita. E quindi anche questo è un punto che ritarda le attività di rimozione. E poi se posso permettermi, a proposito di scelte, io rivendico, lo dico con grandissima serenità, nella gerarchia delle priorità e delle gare che nel nome della legalità e della trasparenza abbiamo dovuto fare, di aver fatto delle priorità. Prima le scuole, perché i bambini non dovevano perdere un giorno di scuola, poi le casette, poi dopo gli esercizi commerciali, poi dopo le macerie, anzi contemporaneamente le macerie con quella priorità. Pensate voi cosa sarebbe accaduto se a un anno dal terremoto non ci fossero state le casette con la gente negli alberghi e invece magari qualche strada un po' più pulita. Certo. Io confido entro fine mese di aprire anche Corso Umberto, ma anche Corso Umberto, il centro che si vede drammaticamente dalle foto, sì, si è cominciato ad allargare la strada nel mese di agosto, perché tutte le case erano sotto sequestro, perché la procura, come sapete, sì, immediatamente scattò. Quindi anche lì la procura ha collaborato, agosto ha tornato i sigilli e abbiamo iniziato ad allargare il centro. È aperta ora, quasi conclusa l'abbandonatura, e apriremo anche Corso Umberto. Quindi è questo il messaggio che bisogna, a mio giudizio, dare. È difficile, ma bisogna sapere che ogni giorno si fa un passo in avanti. Sto facendo aspettare gli altri ospiti, ma l'ultima domanda, presidente Zingaretti, gliela voglio fare. È un problema che Vasco Errani vada via? Ma Errani è stato una potenza, è uno stacanovista. Ci convocava alle 7 di mattina e poi alle 12 e poi faceva le assemblee, quindi sì, è stato un grandissimo contributo. Ma è anche vero che incredibilmente la fase delle ordinanze, cioè di come si farà la ricostruzione, è conclusa. Io sono convinto, il presidente Gentiloni l'ha detto, che il nuovo commissario sarà all'altezza di questo anno che abbiamo avuto alle nostre spalle. Come avete detto voi giustamente, non drammatico non solo per le scosse del 24, ma perché noi abbiamo avuto decine di migliaia di scosse, e l'ultima drammatica è il 18 gennaio di quest'anno. Sì. E quindi è stato un anno nel quale scrivevamo le ordinanze e ci preoccupavamo, ahimè, ogni volta di rimettere le lancette dell'orologio da zero, perché bisognava ripartire al 100% con tutte le verifiche. Vasco, non c'è dubbio che è stato un valore aggiunto, però l'aveva detto: io seguo la parte delle ordinanze, perché poi, avendo alle spalle l'esperienza emiliana, si è visto, si è visto palesemente che aveva come esperienza quello di avere un metodo. Ed è importante. Presidente Zingaretti, vorrei augurarle buona giornata. Non so se si fa in circostanze di questo tipo. La lascio a questa ricorrenza ad andare ad incontrare di nuovo i cittadini della sua regione e anche tutti gli altri. Buona giornata, presto. Buon lavoro. A voi, buona giornata. Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche. Più o meno a lei vorrei fare le stesse domande e naturalmente le risposte arrivano dal fronte marchigiano. Anche per lei il tema delle macerie. So che è stato tempestato di richieste di intervista. Anche su questo aspetto c'è un bilancio che è stato stilato proprio nelle ultime ore. Sarebbero state tolte 125.000 tonnellate di macerie in questa regione, secondo una cifra che ha rilasciato proprio lei, per i 27 comuni marchigiani che hanno richiesto le casette su 78 aree. Ora tutti i cantieri sono attivi. Abbiamo consegnato solo 42 casette, ha detto lei, appunto, entro breve il numero dovrebbe raddoppiare. Aveva detto un paio di giorni fa entro il 24 agosto, quindi entro oggi, ma meno di quello che speravamo, ma entro fine anno ci sarà il rientro del 90% delle famiglie e 1800 casette in costruzione. Ci conferma questa promessa, Presidente? Sì, confermo. Infatti le altre 42 casette le abbiamo consegnate ieri insieme ai sindaci, con i cittadini. Momenti, devo dire, molto belli, che rientrano nelle proprie comunità. Sia quello che tutti quanti desiderano, parliamo di aree particolari, le aree interne, persone molto legate al territorio, e per esempio stare vicino a un signore di 91 anni che è commosso, ringraziava perché forse non si sperava neanche lui di poter tornare a casa, insomma sono momenti che toccano, molto importanti, per quello dispiacere di per un numero che è al di sotto degli obiettivi che saranno dati per questo periodo, ma con l'impegno, essendo ormai quasi tutte le aree cantierizzate, poter settimana dopo settimana continuare in questa restituzione, forte anche dell'entusiasmo che abbiamo sentito da parte dei cittadini. Certo. Presidente Ceriscioli, le chiedo di rimanere con noi perché un altro tema che mi piacerebbe affrontare riguarda molto anche le attività economico-produttive marchigiane. Vorrei farle sentire quello che ci racconta adesso l'inviato del Sole 24 Ore in quelle località, Luca Orlando, è a Norcia in realtà in questo momento. Luca, buongiorno, grazie. Eccoci qua, buongiorno. Ecco, allora, sei da un'altra parte, non sei sul versante marchigiano, ma in ogni caso penso che quello che tu puoi raccontare per quello che riguarda l'Umbria sia la stessa cosa che poi possa riguardare anche le Marche. Il tema della ripresa delle attività produttive. C'è stato anche il tuo pezzo che è andato in onda nel giornale radio, che ho ascoltato con attenzione, dove raccontavi che ci sarebbe grande domanda di prodotti marchigiani, umbri, abruzzesi, e però una impossibilità per molte aziende di soddisfare fare in realtà la domanda che c'è dei loro prodotti, perché ovviamente rimettere in piedi gli stabilimenti, gli edifici, gli impianti non è stato proprio esattamente un gioco da ragazzi e non lo è ancora in questo momento. Ecco, che tipo di censimento hai realizzato, Luca? No, vabbè, non lo è affatto. È chiaro che poi all'interno di tante storie negative ci sono anche alcuni paradossi. Ieri ero appunto nell'epicentro del terremoto di un anno fa, quindi tra Cumoli e Arquata del Tronto, quindi al confine tra Lazio e Marche. E ho trovato intanto tanto entusiasmo e comunque non c'è rassegnazione, cioè tutte le imprese che ho visto io c'è qualche momento di frustrazione per i ritardi nei finanziamenti, sicuramente vengono lamentate una serie di mancanze da parte della burocrazia, questo è inevitabile, peraltro anche il presidente di Confindustria Marche ci segnalava il fatto che gestire una situazione di questo tipo è comunque molto complicato, quindi al di là di tutto insomma chiunque si sarebbe trovato in difficoltà nel gestirla. Le aziende intanto lì abbiamo una situazione complicata anche dalla debolezza strutturale di questo sistema produttivo, perché la dimensione media è di 2-3 addetti, c'è molta agricoltura, ci sono moltissime aziende familiari, sono tutte aziende familiari praticamente. Qualche paradosso, ecco, dicevo, c'è per esempio quello che è un po' la multinazionale di Accumoli, che è il salumificio Sano che ho visitato ieri. Questa è un'azienda che è stata risparmiata, 30 addetti, e quindi per le dimensioni del territorio 30 addetti è come dire Fiat. Ecco, è stata risparmiata questa azienda dal sisma del 24 agosto. E poi la solidarietà che è scattata in tutta Italia, come ricordavi anche tu, grandissima domanda di questi prodotti, ha fatto impennare la produzione, tant'è che per loro lo scorso anno è stato il record dal punto di vista del fatturato. Hanno anche assunto una ventina di dipendenti aggiuntivi, dando anche tra l'altro lavoro alle persone che erano rimaste a casa. Senza perché la propria azienda magari è stata... Esatto. Certo. Poi cos'è successo? A ottobre, in realtà poi metà dello stabilimento è stato reso inagibile dalla seconda e terza scossa. Certo. Loro non riescono più a stare dietro alla domanda, quindi hanno dovuto cancellare per esempio tutte le promozioni in corso, hanno lasciato a casa alcune persone, stanno chiedendo da tempo di avere degli spazi alternativi per la stagionatura, perché il problema è dove stagionare il prodotto, hanno degli spazi che sono praticamente dimezzati. Quindi è l'azienda che aspetta con anche un impatto forte sul territorio, aspetta autorizzazioni, aspetta che arrivino delle risposte dalle autorità. E ci sono poi storie anche positive, perché per esempio ho fatto qualche metro più in là, ad Arguata del Tronto, ci sono sia aziende che sono andate via, a San Benedetto una di trasformazione alimentare, un'altra azienda invece è andata a Treviso, ma c'è poi la ricostruzione del nuovo sito di Polz, che ha deciso di investire 2,5 milioni in questo impianto, che è già quasi completato, l'ho visto ieri, quindi siamo già a buon punto. Luca, quindi raccontaci anche per regalarci un sorriso la storia del Vitello Federico, perché... Beh, il Vitello Federico l'ho visto ieri, e questo allevatore intanto è legato alla sua terra anche per tradizione familiare, perché è un allevatore di una frazione di Accumoli che ha ereditato il terreno che suo nonno aveva comprato tornando dall'America nel 1907. Il sisma gli ha fatto crollare la stalla, era un allevatore di mucche da latte, è stato costretto a vendere la mandria perché la stalla era completamente distrutta. Non ha mollato, è ripartito, ha deciso di cambiare attività, per cui ha trasformato, se vogliamo, la crisi anche in un'opportunità, ha lasciato il latte, è entrato nel settore della carne, ha preso 6 chianine, razza tipicamente toscana, ma che si adatta molto bene anche lì. E lui mi raccontava appunto che quando qualche giorno fa è nato il suo primo vitello da questa piccola mandria di chianine, lui si è messo a piangere, perché per lui era come ripartire, e in effetti vedere questa vita che nasce di fianco al podere distrutto, ci sono 20 metri di distanza tra questa nuova vita e di fianco alla sua casa completamente distrutta, a parte si è costruita una casetta prefabbricata in legno. Insomma, questo racconto mi ha colpito perché dà un po' la testimonianza di quello che è la voglia di ripartire e anche l'attaccamento al proprio lavoro. Il vedere la famosa luce in fondo al tunnel, in qualche maniera, se si vuole. Luca, grazie per essere stato con noi, devo salutarti, mi piacerebbe ancora continuare a sentire quello che hai testato, ma lo leggeremo dalle pagine del Sole 24 Ore nei prossimi giorni. Devo andare rapidamente in pubblicità, chiedo pazienza a Ceriscioli, mi rendo conto che l'ho trascinato, ma so che gli avrà fatto sicuramente piacere anche ascoltare questo racconto sul campo. A tra poco. Ma cos'è quest'estate? Noi ci ritroviamo un anno dopo con le famiglie che hanno perso i loro cari, con le persone che hanno perso, le famiglie che hanno perso tutto, la casa. Ci ritroviamo insieme, una notte di silenzio ma anche di solidarietà, un giorno che comincia per noi questa notte e si concluderà stasera, un giorno di silenzio, di solidarietà e di preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voci, suoni, rintocchi delle campane a ricordo delle vittime, una delle veglie di questa notte di cui vi stiamo riproponendo appunto alcuni suoni, e fra un po' andremo anche a fare due chiacchiere veloci con i sindaci dei tre centri devastati appunto dal tema, ne sono stati tanti devastati, tre sono quelli delle 3A, in particolar modo quelli dei quali parliamo quasi sempre, Amatrice, Accumoli ed Arquata del Tronto. Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche, è rimasto ancora qualche minuto con noi noi è un po' scombinato la mattinata, ma mi piaceva sentire un suo commento, Presidente, sul tema delle attività produttive, che sono strapronte a ripartire addirittura con questo carico straordinario di lavoro derivante anche dai meccanismi di solidarietà nazionale ed internazionale che si sono messi in moto, e non possono farlo, devono dire di no al lavoro, rilasciando di nuovo persone a casa. Questo è veramente una condizione evidentemente anche inaccettabile. Cosa ci dice un amministratore pubblico rispetto a questo? Presidente Ceriscioli è caduto, mannaggia, mi aveva detto di sì, adesso speriamo che abbia sentito la domanda, altrimenti gliela ripropongo. Ma io vi racconto allora un'altra storia di luce in fondo al tunnel a seguito appunto di questo terremoto. Federico Bianconi, buongiorno. Buongiorno a voi. È l'ideatore e il gestore del Relais e Chateau Palazzo Seneca. Questa struttura meravigliosa è stata premiata il giorno dopo di Ferragosto come l'hotel dell'anno. Lei è andato a Las Vegas a riscuotere questo premio? Sì. Ecco. No, ci diranno gli ascoltatori perché raccontate di questo hotel. Banalmente perché siete a Norcia. Esatto, siamo a pochi metri da Piazza San Benedetto, quindi a meno di 100 metri dalla Basilica di San Benedetto. E abbiamo riaperto con grande spirito di ottimismo che un po' ha sempre seguito il nostro fare imprenditoriale qui nella nostra città natale. La mia famiglia, io e mio fratello, attualmente siamo la quinta generazione nell'ospitalità qui nella zona, e abbiamo sentito il dovere di, anche perché le altre quattro strutture sono state fortemente danneggiate, non riusciremo ad aprirle a breve. Palazzo Seneca era l'unica struttura che non aveva subito danni, e quindi abbiamo, come si dice, ci siamo rimboccati le maniche con quello che potevamo fare. Siamo ripartiti per questa avventura. Il turismo, certo, è un settore che lavora con un anno d'anticipo, e quindi tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per investire sul nostro futuro e sul futuro della nostra città. Ecco, naturalmente dobbiamo ricordare che a Norcia le scosse più importanti sono arrivate alla fine di ottobre, e quindi non stiamo parlando delle scosse di un anno fa, e peraltro Norcia è stata richiamata anche come modello fra virgolette virtuoso, perché ha retto molto di più rispetto agli altri centri a fronte appunto delle scosse. Che cosa è successo nel giorno in cui è arrivata a Norcia la scossa importante? La vostra struttura che tipo di tenuta ha avuto? Mi pare di capire che abbia retto, ovviamente c'erano clienti, ecco, cosa ricorda di quel giorno? Eravamo pieni. avevamo, diciamo così, dopo la scossa del 24 agosto, dove avevamo oltre 500 persone in casa tra tutti gli alberghi, ci siamo messi insieme con tutti gli altri operatori, non solo del settore del turismo, ma di tutti gli imprenditori locali, dai piccoli ai grandi, per rimboccarci le maniche e far ripartire prima possibile le nostre attività. C'eravamo riusciti, eravamo alle porte di un ponte con il tutto esaurito qui a Norcia, e grazie a Dio è successo tutto prima. Eravamo pieni, io stavo uscendo da casa, a casa mia è circa 50 metri dall'albergo, quindi è stato un momento veramente complicato, perché aprendo la porta c'era una nube di fumo, una nube di tutto, e non sapevo se dietro questo fumo, questa situazione c'erano anche i nostri alberghi. Quindi mi sono messo un maglione in faccia e sono passato in mezzo alle due chiese, che purtroppo nel frattempo erano crollate, che ci dividono dagli alberghi, e grazie a Dio non c'era nessuno dei nostri alberghi, ma più che altro non c'erano persone sotto le macerie. Quindi siamo andati nei corridoi, abbiamo fatto uscire tutti gli ospiti. Le abbiamo fatti prima uscire in giardino, poi pian piano l'abbiamo accompagnati in casa, abbiamo recuperato, perché erano tutti stranieri, avevamo ospiti dagli Stati Uniti e ospiti da Singapore, un altro dei nostri alberghi avevamo altri concittadini che purtroppo avevano la casa già lesionata, e altri, anche molti giornalisti che erano appunto in zona per documentare quello che stava succedendo. Nulla, non ho risposto in realtà alla prima domanda di Las Vegas. No, sì, esatto, insomma, vi siete meritati questo riconoscimento perché la struttura evidentemente molto... non è che è stato un riconoscimento per il fatto che siete nella zona del terremoto, la vostra è una struttura dal punto di vista qualitativo eccezionale, quindi basti andare a guardare adesso senza farvi pubblicità sul vostro sito. Detto questo, è stato comunque anche un riconoscimento che è ovvio ha avuto anche un, come dire, un connotato simbolico, è evidente. Se ne è parlato durante la premiazione, peraltro? Assolutamente sì, ne ho fatto. Allora, il Best Hotel of the Year in realtà non è soltanto un albergo che dà buoni servizi d'eccellenza o ha una particolare connotazione di design. In realtà un po' quest'anno si calzava veramente su quello che avevamo fatto, ossia rappresenta la dicitura per la candidatura è rappresentare un'icona nell'economia del territorio in cui si insiste e da traino allo sviluppo economico, sia della comunità che per lo sviluppo del turismo. Certo. Quindi direi che quest'anno più che mai un albergo come il nostro rappresentava un po' questo, e c'è stata sicuramente la solidarietà e l'attenzione di tutto il mondo del turismo, di tutte le agenzie, perché soltanto le agenzie di viaggio di tutto il mondo avevano 2 settimane per votare i 5 candidati, che parliamo di città che non hanno le dimensioni sicuramente di Norcia, parliamo di Bangkok, parliamo di Londra, parliamo di Shanghai, parliamo delle Hawaii. Lo so, però la bellezza di Norcia queste zone qua non ce l'hanno, non avranno le dimensioni ma neanche... Forse neanche il valore umano. Esatto, artistico, architettonico e tutto quello che vogliamo, mettiamoci un po' di campanilismo, va in queste considerazioni, che male non ci fa. Senta Bianconi, grazie per essere stato con noi, vado a dare un sostegno emotivo, è una pacca sulla spalla, so che lo avrà fatto sicuramente in questo anno, a quei suoi colleghi imprenditori, magari operanti in altri settori, che invece fanno fatica a ripartire, non hanno ancora proprio ripristinato le condizioni emotive per farlo, ma sono anche alle prese con tanti vincoli, lacci, lacciuoli, problematiche burocratiche, quindi però hanno bisogno di ripartire, perché come dicevamo prima con il collega del Sole, che lì le condizioni di solidarietà che si sono messe in moto hanno fatto anche ripartire una domanda di tante produzioni e hanno bisogno di aiuto. Grazie Bianconi. Vado a Nicola Lemanno, che è il sindaco invece di Norcia. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lo ricordavamo, Norcia invece duramente colpita dalle scosse autunnali dell'anno scorso e peraltro presa a modello più volte per la resistenza delle strutture di quell'area, degli edifici, che ha evitato quello che è successo invece negli altri paesi, purtroppo rasi al suolo. Anche voi siete stati un po' richiamati in questi giorni a parallelo con Ischia, perché si è detto insomma una scossa del 4.0 a Norcia non si sarebbe neanche sentita, mentre l'ha buttato giù le case. Adesso vabbè, poi serve a quello che serve fare paralleli di questo tipo. Norcia un anno dopo, sindaco Alemanno, cosa ci racconta? Sì, Norcia un anno dopo, se possibile, ha aumentato ancora di più il livello di resilienza che suo malgrado la nostra popolazione ha dovuto necessariamente acquisire nel corso del tempo, perché comunque vi è stata la consapevolezza ormai da anni di dover fare i conti con questo tipo di fenomeno. Il terremoto non è un fenomeno, come dire, improvviso, occasionale, è un fenomeno che noi sappiamo con il quale dobbiamo assolutamente convivere e coesistere, e quindi ci dobbiamo preparare per affrontarlo al meglio. Non si può scappare via dal terremoto, il terremoto va affrontato e va anche esorcizzato, mettendo in sicurezza le strutture. Questo è quello che in qualche modo è stato fatto nel corso degli anni, e quindi prima di tutto un fenomeno culturale, poi subito dopo un fenomeno politico ed amministrativo. È stato un anno complesso, è stato un anno molto molto difficile, è stato un anno che ci ha visto impegnati per quello che ci riguarda nell'affrontare 2 terremoti distinti, uno quello del 24 agosto, la cui, come diceva Bianconi poco fa con voi, la cui emergenza noi avevamo immediatamente concluso, perché alla metà di ottobre avevamo tutti i campi di assistenza comunque che erano stati smontati e 351 nuclei familiari in autonoma sistemazione, 115 in sistemazione alberghiera, avevamo avviato, eravamo pronti per avviarci alla fase di rilancio e della ricostruzione, dopodiché abbiamo avuto questo cataclismo il 30 di ottobre che ci ha fatto invece ripiombare in una terribile condizione dalla quale abbiamo cercato di risalire, iniziando proprio con il convincere gli imprenditori, le nostre famiglie, che nonostante le grandi peculiarità che la nostra terra ha, le grandi potenzialità, Norcia è nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è la patria della norcineria, è una delle due capitali del tartufo in Italia, Alba per il Bianco, Norcia per il Nero, è la patria soprattutto di San Benedetto, patrono principale d'Europa, è una terra che ha dato molto, una terra che potrà dare molto, ma una terra che ha dimostrato in pochissimi secondi di potersi riprendere tutte. Quindi il lavoro importante che abbiamo dovuto compiere fin dai primi giorni è stato quello di convincere tutti a restare. L'abbiamo fatto puntando sulla scuola, l'abbiamo fatto puntando sul lavoro, l'abbiamo fatto scommettendo sul nostro centro storico, riaprendo il centro storico per il Natale il 22 di dicembre, lo abbiamo fatto facendo, illuminando la città, mettendo gli alberi di Natale in piazza, le luminarie, il presepio, come se avessimo avuto a disposizione integralmente il nostro centro storico. Una scommessa che pensiamo in qualche modo di aver vinto. Oggi la città continua a ricevere la solidarietà di molti visitatori che ci raggiungono. Esatto, guardi sindaco, per salutarla le leggo questo messaggio di questo ascoltatore che ci racconta: Debora, a luglio con un gruppo di amici abbiamo fatto un giro in Umbria e a Norcia, abbiamo trovato posti, persone, sapori meravigliosi, ma le macerie sono tante, aiutiamoli, noi aiutiamoli continuando a comprare umbro, marchigiano, abruzzese, laziale, la matriciana, facciamola, rifacciamola in ogni modo. Compriamo il ciauscolo marchigiano, sono marchigiana, sindaco Alemanno, lo dico sempre. Grazie. Devo salutarla adesso perché ho gli altri tre sindaci bene, in diretta. Grazie, in bocca al lupo per la vostra attività, la pubblicità tra poco. Ma cos'è quest'estate? È l'estate del bilancio di un anno dal terremoto che un anno fa sconvolte il centro Italia e andiamo ai tre sindaci in prima linea nella gestione dell'emergenza, perché sono i tre paesi più duramente colpiti, quelli che hanno pagato con il numero di vittime più alto. Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto, buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Allora, non è una giornata particolarmente felice per voi, dovrà essere superata in qualche modo. Qua ritorniamo sul tema dei bilanci, sul tema dei bilanci che si possono stilare da un anno a questa parte. Noi non ne facciamo numeri, non ci piacciono più, però un tema c'è, lo abbiamo affrontato noi all'inizio trasmissione con il governatore del Lazio, con Zingaretti. Vorrei ritoccarlo con lei perché ieri ascoltando, lo ricordavo anche prima, molti servizi di molti colleghi che sono direttamente sul territorio in questo momento, c'è questo grosso problema delle macerie che devono essere tolte per far ritornare in una condizione, se possibile in futuro, di semi normalità queste aree. Sindaco Petrucci, voi da questo punto di vista so che siete quelli probabilmente più pieni di detriti, come sta andando lì la situazione? Che giornata è oggi questa anche da questo punto di vista? Ma oggi è una giornata particolare innanzitutto perché questa notte abbiamo fatto la veglia fino alle 3:33, l'ora fatidica, dove c'è stato l'indocco delle campane, eccetera. Quindi, ma campane messe lì perché lì non esiste più una chiesa, non esiste più niente. Esistono solo 500.000 tonnellate di macerie che devono essere rimosse. Ne sono state rimosse 60.000, che sembrerebbe una cifra enorme, ma invece pensate che il centro storico Arquata dopo un anno non è accessibile, non si può andare. Adesso con i politici è arrivato il genio militare, stanno studiando delle soluzioni per arrivare al centro storico e cominciare a rimuovere le macerie. La situazione purtroppo non è rosa nel mio territorio perché fino a 20 giorni fa non c'era neanche un abitante. Io ho dovuto fare un'ordinanza di sgombero totale. 13 paesi, 13 zone rosse. Questa era la situazione. Adesso in due parti ci hanno consegnato le casette per un totale di 42, ma sono un numero insufficiente. Perché certo. Di quante ne avete bisogno, 200. Sindaco? Quante ve ne servono, sindaco? 200. Almeno 200 per cercare di riportare almeno la metà della popolazione qui ad Arquata del Tronto. E se non me li consegnano per la riapertura delle scuole, io avrò una scuola che mi ha fatto una donazione che è pronta per il 15 settembre, ma gli alunni ne saranno pochissimi. Questo è il nostro dramma, è il dramma di tanta gente che può tornare, che però ha pochissime, pensa che solo 22 famiglie sono rientrate con l'abitazione in buono stato. Tutte le altre sono o completamente tenute giù oppure con danni seri, per cui occorreranno mesi e anni forse per recuperarle. Mi colpisce molto, Sindaco, il tono della sua voce, perché prima lo sollevava giustamente anche un ascoltatore questo tema. Dalle parole del governatore del Lazio Zingaretti si ha l'impressione, ma noi gli crediamo naturalmente, c'è stato un grande impegno quotidiano. Lui raccontava di blitz fatti anche settimanalmente nei cantieri, senza anticipare che andasse a vedere il punto, lo stato dei lavori, della ripulitura delle strade, delle aree eccetera. Insomma, abbiamo l'impressione di zone dove tutto si provi a far ripartire molto bene, con molta forza, e altre zone completamente ancora lasciate nella totale solitudine, come quello che accade ad Arquata del Tronto. Ce ne dispiace molto. Oggi solleviamo di nuovo un forte appello pubblico. Sindaco, di cosa ha bisogno? Ma io, tante associazioni, tanti sindaci mi dicono: Sindaco, di che hai bisogno? Io a tutti dico: di tutto e di niente. Qui noi non abbiamo niente, neanche la popolazione, quindi se non mi ritornano le famiglie, cioè con le casette, che dico, che ho bisogno io? Quindi diciamo l'emergenza anche di solidarietà ce n'è tanta in Italia, questo forse abbiamo bisogno, perché ha scosso anche le coscienze, penso che il tessuto sociale, io non so, lo so perché ho gli elenchi dove sono le famiglie, negli alberghi, siamo dispersi, un territorio molto vasto, noi qua ci troviamo l'ultimo paese delle Marche, quindi a confine con Amatrice e con Lazio e con l'Umbria, però ecco, non vorrei rimanere l'ultimo paese, insomma, certo, quello più colpito con le nostre 51 vittime che abbiamo ricordato e che oggi commemoreremo, verranno una messa ufficiale, tanti qualcuno del governo, però a fin fine poi se non accelerano portando via le macerie non si può parlare, certo, di ricostruzione. Sindaco, non c'è nessuna attività aperta, qui nessuno può venire perché non c'è un posto letto dove dormire, c'è una piccola trattoria che è riaperta alcuni giorni fa, è intasata perché ci sono gli operai che lavorano nei cantieri e quindi si bisogna fare le file chilometriche per mangiarci. Noi ci portiamo un panino e io per esempio sto ad Ascoli Piceno e sono fortunato a fare solo 70 km al giorno andate e ritorno, altri stanno al mare e ne fanno il doppio, quindi questa purtroppo è la situazione drammatica a un anno del terremoto, però noi siamo montanari, dico io, siamo forti e vogliamo andare avanti. La pelle è dura, Sindaco Petrucci, vi conosco molto bene. C'è un altro sindaco che ha il suo stesso cognome, ma si chiama Stefano di nome, del sindaco di Accumoli. Sindaco Petrucci, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. Credo che lei possa comprendere molto bene quello che passa il suo collega Aleandro, perché anche per Accumoli tornare in paese resta una scommessa, e peraltro il reportage titola così stamattina Repubblica, parlando di questa Italia che trema. Anche voi siete stati seguiti molto attentamente quest'anno nella vostra tentativo di riportare ad una possibile normalità il vostro paese, ma anche per voi tornare in paese resta una scommessa, dicevo titola. Anche per voi vivete più o meno la stessa condizione di Arquata? Sì, su per giù siamo tutti nella stessa barca. Noi fortunatamente abbiamo avuto il numero minore di vittime, però dopo il 30 ottobre c'è stata anche qui da noi la devastazione totale dei centri abitati, sono completamente rasi al suolo. Anche noi ieri sera abbiamo celebrato una funzione con la Via Crucis, oggi alle 18 ci sarà un'altra funzione di commemorazione con il Vescovo di Rieti. E un altro arrivo di funzionari pubblici, arriva il Premier Gentiloni, Sindaco Petrucci di Accumoli in questo caso. Io chiedo anche a lei, di che cosa avete bisogno oggi dopo un anno? Anche per voi noi abbiamo bisogno di accelerare un po' su tutte queste attività che si stanno portando avanti dall'anno scorso con molta fatica. E magari qualche obiettivo lo abbiamo raggiunto anche prima di Arquata, ma non è questo, diciamo, un traguardo tangibile, perché comunque abbiamo consegnato 130 casette, 200, e stiamo riaprendo le attività commerciali adesso a metà settembre. Voi ce la state facendo, a differenza invece di Arquata, dove le famiglie non vogliono neanche minimamente pensare di ritornare. Per metà settembre comunque avremmo consegnato tutte le 200 casette che fa bisogno del nostro comune, e anche le attività commerciali verranno riaperte, però ci portiamo dei ritardi in mani, specie ecco, anche noi sullo sgombero delle macerie, dovuti a una serie di circostanze negative, tutto un po' influito su questo, però sta di fatto che le persone non vedono risultati tangibili. Certo. Stefano Petrucci, sindaco di Accumoli, io purtroppo devo salutarla. Avete oggi una giornata molto impegnativa di fronte a noi, ma abbiamo voluto comunque raccogliere di nuovo sul finale la vostra nuova ennesima richiesta di aiuto ad un anno dal sisma. Grazie per essere stati con noi. Vi siamo, ve lo diciamo sinceramente, molto vicini per quello che si può fare, almeno con un microfono. Proveremo ancora più volte a rilanciare le vostre necessità. Ma che cos'è quest'estate? Anche questa puntata termina qui. Grazie a tutti. Peter, chiudo, a domani.